Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mon amore così guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, se pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Stai tremando e dillo, amavo bene, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha ricevuto mai, non pena così, a così grande. Tu stesso non sai, una cosa che non ha ricevuto mai, non bene così, a così grande.